Il documento innanzitutto è la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2017, quindi è una revisione del documento di economia e finanza approvato in aprile, una revisione che tradizionalmente avviene appunto in autunno. Lo slogan con cui, diciamo, lo stesso ministro Padoan ha voluto descrivere questa nota è più PIL meno debito, nel senso che rispetto al documento firmato dal governo in aprile, le nuove previsioni sostengono che ci sarà per il 2017 un livello del rapporto debito-PIL del 131,6%, inferiore a quanto inizialmente previsto, e che il PIL crescerà dell'1,5% a fine anno e resterà più o meno su questo sentiero di crescita anche negli anni successivi, mentre il debito pubblico dal 2018 dovrebbe appunto ridursi al di sotto della soglia del 130%. Per far questo, qual è la serie di politiche che si pensano essere in grado di raggiungere questo risultato? In sostanza è un mix di cose, cioè innanzitutto la previsione che ci sarà una crescita del PIL nominale più alta nel 2018, anche se i maggiori istituti, organismi internazionali, dalla BCE al Fondo Monetario Internazionale, sono molto più cauti del governo italiano in questo e prevedono anche un rallentamento della crescita del PIL, soprattutto a seguito delle incertezze politiche mondiali e nello specifico anche europee. Ma il governo prevede appunto che ci sia una crescita nominale sostenuta, prevede anche che ci saranno tagli al fabbisogno della pubblica amministrazione, quindi sostanzialmente tagli alla spesa pubblica che permetteranno di ridurre il deficit nel 2018, ma che questo contributo negativo di fatto alla crescita verrà compensato sostanzialmente da un lato dalla mancata attivazione delle cosiddette clausole di salvaguardia, e tra un attimo andiamo a vedere di cosa si tratta, dall'altro dal fatto che ci sarà più gettito fiscale dovuto a possibili privatizzazioni del patrimonio pubblico. Dicevo, cosa sono le clausole di salvaguardia? Si tratta di dispositivi di controllo che i governi italiani, a partire dal governo Berlusconi e poi successivamente con i governi Monti e Letta, hanno predisposto qualora, diciamo, a seguito delle misure previste nei vari anni, diciamo, del loro mandato, la pubblica amministrazione avesse avuto bisogno di ulteriori risorse, e in questo modo quindi ci si sarebbe scontrati con il pericolo di essere puniti dalla Commissione Europea attraverso appunto delle procedure di infrazione. In particolare la clausola di salvaguardia che il governo dice appunto di riuscire ad evitare è una clausola che comporterebbe l'aumento dell'IVA per circa 15 miliardi nel 2018, e questo, secondo i modelli del tesoro ma anche secondo il buonsenso, chiaramente ridurrebbe la crescita e la produzione nel 2018. Il punto qual è? Che per evitare questa clausola di salvaguardia naturalmente bisogna comunque ridurre il disavanzo, e quindi quello che il governo prevede di fare, come dicevo poc'anzi, è appunto quello di continuare sul percorso di tagli alla spesa pubblica e anche diciamo cercare di aumentare le entrate attraverso le privatizzazioni. Tutto questo comunque controbilanciato da un aumento atteso, diciamo, della spesa per investimenti pubblici, e questo anche grazie all'abolizione del patto di stabilità interno, cioè all'abolizione di quel complesso di regolamenti che impediva agli enti locali di spendere. Secondo per esempio un rapporto della Cassa Depositi e Prestiti sulla finanza locale che è uscito di recente, questa è stata appunto la voce di spesa che ha maggiormente colpito la crescita negli ultimi anni, cioè il fatto che gli investimenti pubblici, soprattutto quelli sul territorio, sono stati ridotti a ritmi davvero molto rapidi. Qual è il punto politico di questo? Sembra quasi, diciamo, dall'impostazione generale di questa nota di aggiornamento, che il governo si stia preparando, diciamo, una manovra di basso profilo elettorale. In che senso? Nel senso che da un lato c'è la Commissione Europea che spinge per un continuo, per una progressiva riduzione dell'indebitamento pubblico italiano, quindi per una prosecuzione dell'austerità, e questo orientamento sarà ancora di più, come dire, confermato dopo le elezioni tedesche che sono avvenute di recente. Dall'altro c'è l'idea che c'è una grande incertezza politica rispetto all'esito delle prossime elezioni, e quindi non avrebbe senso da un punto di vista prettamente politico stringere la cinghia proprio a prima che avvengano le elezioni, per paura che appunto ci siano risultati positivi per le forze cosiddette anti-europeiste o anti-establishment. E quindi di fatto il governo italiano si prepara a negoziare con la Commissione Europea un rallentamento, di nuovo come abbiamo visto sempre negli ultimi mesi, cioè un rallentamento della velocità con cui viene perseguita l'austerità, ma chiaramente non un'inversione di rotta. Infatti il governo, rinunciando all'attivazione di queste clausole di salvaguardia, si aspetta che nel prossimo anno l'indebitamento netto, cioè il deficit, si attesti all'1,6%, quindi leggero aumento rispetto a quanto è avvenuto quest'anno, quanto si prevede che avvenga quest'anno, e questo un po' come per conservare lo status quo senza colpire ulteriormente la crescita, ma anche, diciamo, senza evitare di deludere Bruxelles, che fa ancora sentire il suo fiato sul collo. Quindi, se dovessimo dare, come dire, un giudizio politico sulla manovra, risulta essere in linea con un po' quella che è stata la strategia del governo italiano da sempre negli ultimi anni, almeno dopo il governo Monti, cioè quella di un perenne doubt death con le istituzioni europee, che a fronte di alcuni piccoli spazi di flessibilità tenta di portare in cambio alcune sempre, diciamo, ribadite riforme strutturali e anche alcune sempre ribadite privatizzazioni del patrimonio pubblico, che dovrebbero in qualche modo ridurre quello che viene sempre definito come il peso dello Stato nelle economia, e soprattutto dovrebbe portare a un aumento delle entrate che non ricorre però a tasse che sarebbero politicamente ed economicamente impraticabili.